si è trovato che è arrivato quando ha messo Milito, e tra l'altro Milito ha cominciato a far gol a tutto spiano. Lui era lì che partiva dall'angolo, quando arrivava in zona gol arrivava un po' faticato, no? E forse neanche l'anno scorso non era così a posto come quest'anno, all'inizio del campionato parlo, certo. E facendo questa fatica faceva meno gol, Evidentemente quest'anno gioca più vicino, soprattutto quando gioca più centrale, gioca nel suo spazio naturale dove ha sempre fatto tanti gol come sta facendo adesso. Il problema nasce che tutti abbiamo anche in mente il Milito dell'anno scorso, che è stato veramente eccezionale, è stato decisivo al 1000 per 1000, e questo Eto'o lo avevano convinto a fare mediano terzino e qualche volta l'ala. E adesso lui, poi iniziando in questa maniera, questo è un problema che sicuramente l'allenatore vedrà come soluzionarlo. Certo, in qualche modo dovrà risolverlo. Luis, se ti dicessi grazie sarebbe poco per questa lectio magistralis. Non darmi grazie, fammi un'altra cassola. Un'altra cassola? Era una bagna cauda quella che abbiamo mangiato 20 anni fa insieme. No, una bagna non cauda. Ce la farei. Non una cassola. Allenati. Quella barbarità. Barbarità, allenati che una volta o l'altra ci possiamo riprovare. È andato da Dio, sì. Grazie Luisito. Va bene. A presto, è saltata fuori anche una storica bagna cauda di una 20 anni fa con questo che è stato, non lo so, si può discutere se è nei primi 10 o nei primi 12 o nei primi 20 di tutti i tempi, ma insomma, un giocatorino più o meno di quel livello lì. Gli aggiornamenti da strade e autostrade. Tempo di sport. Allora, il revival di oggi si chiude con l'intervento del presidente della Triestina, Stefano Fantinelle. Era il giorno 7 settembre e aveva fatto rumore, ma non poco rumore, l'iniziativa della Triestina, che per lottare contro lo spopolamento dello stadio aveva tappezzato, a partire da Triestina Pescara, di inizio stagione, le tribune, la tribuna prospiciente, quella centrale dello stadio Nereo Rocco, con dei teloni raffiguranti dei tifosi. Ci vuole del bello e del buono, tra l'altro, per capire che davvero si trattava di una, non so, possiamo chiamarla gigantografia, e non di persone reali. Si cercò di stabilire fin da allora se era l'inizio di una nuova frontiera. Insomma, lo stadio è rimasto deserto, i teloni raffiguranti i tifosi sono rimasti, fate un pochino voi. Buongiorno Fantinelle. Buongiorno a voi. Senta, io comincio subito da una, non è una provocazione, questa è una dichiarazione di Cesare Prandelli, secondo me serve da innesco perché lei ci spieghi l'iniziativa. Ha detto Prandelli un'ora fa, dice: quella della Triestina è stata una provocazione, io per ovviare alla carenza di spettatori allo stadio avrei una proposta, tanti bambini amano il calcio, sarebbe l'occasione giusta per invitarli a entrare gratis allo stadio. Io ci sento un profumo di demagogia rara in questa frase, però è anche vero che è una scuola di pensiero accettabile. No, sicuramente noi lo facciamo, però il problema è che la Serie B, giocando il sabato pomeriggio alle 3, fa difficoltà, perché tutti i campionati giovanili la maggior parte giocano sabato pomeriggio e quindi quando facciamo questi inviti non riusciamo a riempire lo stadio come vorremmo tutti, perché sappiamo che il pubblico di domani sarà sicuramente il giovane. Quindi la nostra comunque non è stata una provocazione, la nostra è stata da un'esigenza, abbiamo cercato di cogliere un'opportunità. Mi scusa se interrompo un istante solo, perché mi viene in mente comunque anche questo, che tenendo conto della capienza del Nereo Rocco di Trieste, 28.565, io ho l'impressione che ci sia spazio sia per le vostre iniziative, provocatorie o meno, adesso lei ce lo spiegherà, sia per eventuali e quanti vogliono essere bambini sugli spalti, perché... mi ha aiutato Franco Piantanida dalla redazione a tirare fuori questi numeri. Negli ultimi 6 campionati solo 5 volte il Nereo Rocco ha registrato più di 10.000 spettatori. Ora, più di 10.000 su 28 565 vuol dire che di margini ce n'è per bambini e per cartelloni. Ah, sicuramente. Infatti la decisione che abbiamo preso quest'anno di chiudere una tribuna è proprio per avvicinare un po' sempre di più le persone, perché secondo noi il problema principale è che gli stadi deserti portano povertà, portano, non c'è più una discussione, non c'è più un commento alla partita, quindi secondo noi mettere più persone insieme fa sì che le persone, portano idee, portano tante cose che ci auspichiamo che di riuscire a fare, ma sicuramente l'iniziativa è quella di razionalizzare il Nero Rocco, che è uno dei più belli stadi d'Italia, con, come ha detto lei, con 30.000 persone. Noi di solito ne abbiamo dalle 7 a 8.000, quindi c'è spazio per tutte le iniziative che possiamo fare, anche pur perdendo questi 9.000 posti in tribuna. Quindi senta, questi 9.000 posti in tribuna che sono stati occupati come lo chiamo, cartellone, questa copertura, da questa termine tecnico, black drop lo chiamano, però backdrop. Sì. Un telone, in altre parole. È un telone praticamente che raffigura la partita più bella degli ultimi 4 anni a Trieste, che è stata Triestina Juventus del 2006-2007, un fatto straordinario. Per voi, per la Juve un po' meno, perché era un anno... Per noi era una festa quel giorno, certo. Quindi c'erano 26.000 persone allo stadio, abbiamo detto riproponiamo quella festa, perché per noi lo stadio deve essere festa, deve essere discussione, deve essere qualcosa di diverso, bisogna ricreare una certa atmosfera che chiaramente che con l'avvento delle TV, con l'avvento di tante altre cose, si sta smarrendo. Questo era il nostro pensiero profondo. Certo. Senta, tra le tante altre cose che sono l'avvento e diciamo pure anche lo strapotere della TV, che poi condiziona anche e magari suggerisce queste iniziative, e la tessera del tifoso, forse la tessera del tifoso potrebbe essere un altro problema. A me la tessera del tifoso fa un po' venire in mente Il palloncino esasperato. Lei è un grande produttore di vino, e quindi non so perché, non è che si somiglino tanto, però sono quelle cose che comunque a un settore indubbiamente del male ne fanno. Sicuramente. Guarda, io domenica ho assistito a Triestina Pescara, nella curva da ospiti c'erano 6 persone con la tessera del tifoso e c'erano 70 scalmanati ultras in tribuna, vicino alla tribuna d'onore, vicino alle famiglie, vicino ai bambini, perché abbiamo concentrato tutto in tribuna, che sono arrivati senza tessera del tifoso, hanno comprato il biglietto e sono arrivati a Trieste. Per me diventerà un problema di sicurezza pensare a delle partite Triestina-Livorno, Triestina-Padova, Triestina-Vicenza, cioè, quindi io mi auguro che il Ministro tenga conto di queste problematiche, che poi diventano costi per noi, quindi per la società, ma anche per la stessa polizia. Domenica a Trieste c'era più polizia rispetto alle gare normali, perché bisogna controllare X numero di persone che non sei riuscito a mettere in un settore specifico. Quindi secondo me d'ora in poi bisognerà pensare anche a questo, perché parliamo di sicurezza, poi non vorrei succedesse un problema e poi tutti diciamo ma qualcuno l'aveva detto. Quindi io mi auguro che il Ministro veramente pensi a una soluzione, perché gestita così la tessera del tifoso me non porta beneficio a nessuno. Ho l'impressione anch'io, anzi ne ho la convinzione. Lei ha raccontato al Corriere della Sera che con questa iniziativa, se non altro, risparmia 100.000 euro a stagione nella gestione della gradinata, perché evidentemente non c'è il personale, non ci sono gli steward da pagare. Sì, non ci sono steward, non ci sono pulizie, non ci sono tutta una serie di interventi di manutenzione che dobbiamo fare. A questi 100.000 euro dobbiamo sommare la pubblicità che stiamo, perché non è ultimato ancora il lavoro, che andremo a utilizzare, quindi, perché noi da questa iniziativa ci auguriamo di poter ricavare delle risorse per fare delle politiche, come abbiamo fatto la prima partita con la Binolef, che abbiamo portato quasi 7.000 persone allo stadio, in cui facciamo entrare la gente a un euro, andiamo a fare una politica sulla famiglia, andiamo a fare una politica sugli universitari, perché per riempire lo stadio, se no, a parole è semplice, a fatti è sempre molto difficile, quindi la leva prezzo secondo me in questo momento è determinante. Allora, riuscire a creare uno stadio gradevole, io ho fatto la provocazione stamattina, ho detto potessimo usare anche il sonoro, perché finita la partita, se diventa posto di aggregazione, secondo me noi lo arricchiamo come numerica, altrimenti diventa sempre uno spettacolo che, finita la partita, tutti se ne vanno. Invece questo vorremmo cercare di fare, però sappiamo che ci vuole del tempo, ci vogliono delle risorse, e le risorse le trovi solo in questo momento attraverso una serie di eventi che devi fare per forza. Però lei ha dichiarato anche che spera in ogni caso che questa iniziativa che voi avete intenzione lentamente di trasformare possa arrivare a garantirvi, ad assicurarvi degli introiti pubblicitari extra. Sicuramente. Noi abbiamo predisposto 24 spazi pubblicitari che prossimamente andremo a collocare sul mercato, e da questi oltre 100.000 euro risparmiati andiamo ad avere una risorsa importante per quest'anno, visto che le necessità in Serie B sono sempre molte per poter mantenere un certo livello di settori giovanili, un certo livello di prima squadra, perché le risorse altrimenti che ci vengono date anche in aumento rispetto agli anni prima dalle TV non sono sufficienti. Oliviero Toscani ha definito questa iniziativa un'idea da perdenti, l'ha bollata con parole anche abbastanza dure, alla maniera peraltro di Oliviero Toscani. Ne ha detto un'altra, ha detto chi ha scelto di mettere i tifosi finti è come una donna che ha fatto un lifting e ha sbagliato tutto. Ora, a parte che il lifting lo fanno anche gli uomini e poi quando invecchiano somigliano magari a Star Trek, ma insomma, lei come risponde a questi giudizi? Sembra strano, perché Oliviero Toscani, che è una persona che ha fatto della comunicazione, ha fatto di questi messaggi provocatori una bandiera della sua vita, non lo so se aveva capito esattamente l'iniziativa, perché secondo me non aveva capito molto l'iniziativa nostra. Quindi noi non volevamo sicuramente riprodurre nessun fantoccio, nessun stadio virtuale, queste cose qua. Noi da un'esigenza volevamo far diventare un'opportunità, quindi vista sotto quest'occhio qua, a livello di costi, a livello di immagine, secondo me presentare una cosa bella da una cosa brutta costa lo stesso. Quindi secondo me, una volta ultimato il lavoro, uno che lo vede dice: ma vedere tante gradinate e tante curve chiuse in questo momento in Italia, secondo me vederle con uno stadio pur virtuale, come viene definito, almeno è una cosa bella. Questo volevamo riproporre, una cosa che Trieste fosse in giro per Italia ricordata per qualcosa, non per una tribuna chiusa. Beh, lo è stato, erano, dal punto di vista comunicazione non c'è alcun dubbio, erano anni che non si parlava di Trieste e della Triestina con questa risonanza, no? Questo sì, ci auguriamo di far parlare il campo. No, certo, queste cose. Se vi alla fine è importante il campo. Beh, certo, è evidente, non vi accontentate purché se ne parli, evidentemente avete altri programmi in testa. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Grazie del suo intervento. Grazie a voi. Grazie a tutti per l'attenzione, questa puntata si chiude qui, avendo avuto la collaborazione preziosa di Fabio Cantadori in regia e di Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.